E adesso entriamo ancora più nel vivo del tema del nostro incontro, le parole che curano o le parole nelle pratiche di cura. Beh, chi è stato il medico che in Occidente ha parlato per la prima volta delle parole che curano? È stato Freud. Freud era convinto che le parole potessero curare le persone. E naturalmente anche farle ammalare. L'idea freudiana, l'idea della psiche dal punto di vista freudiano è questa, presentata in questa diapositiva. L'inconscio pulsionale, l'inconscio sociale e l'io in mezzo. Tra queste due enormi forze. L'inconscio pulsionale, sesso, aggressività. L'inconscio sociale, quello che conosciamo tutti come superio, cioè le norme interiorizzate. Sesso e aggressività sono pulsioni, cioè sono qualcosa che ci appartiene come specie. Noi quando pratichiamo la sessualità o l'aggressività, in gran parte dei casi, siamo dei funzionari della specie. Il sesso serve per la riproduzione, l'aggressività serve per proteggere la prole. Questa è la visione freudiana. È chiaro che nella visione freudiana una società in cui le persone fossero guidate solo dall'inconscio pulsionale sarebbe una società a grave rischio, perché queste pulsioni non hanno grandi fattori di inibizione. L'inconscio sociale serve a controllare queste pulsioni e a barattare un po' di felicità con un po' di sicurezza. Questa è un po' l'ipotesi freudiana. Bene, oggi sappiamo che la visione freudiana era del tutto limitata. Pur continuando a usare il suo modello, il modello delle pulsioni, insieme alla sessualità e aggressività, sicuramente ci dobbiamo comunque aggiungere l'altra pulsione fondamentale dell'essere umano, che è la socialità. La socialità cosa vuol dire? Vuol dire che siamo naturalmente persone affettuose che cercano il contatto con gli altri. E questo contatto, il bisogno di contatto con gli altri, è un bisogno primario, non meno importante, della fame, della sete, della sessualità e dell'aggressività. Ci sono, secondo gli antropologi, due tipi di società. Le società che privilegiano l'armonia e le società che privilegiano l'efficienza. Nelle società che privilegiano l'armonia si dà importanza alle relazioni, alla qualità delle relazioni e quindi si dà importanza ai sentimenti. Nelle società dell'efficienza si porta attenzione agli oggetti, intesi come oggetti separati. E nella società dell'efficienza si è interessati a raggiungere gli obiettivi, per raggiungere gli obiettivi si sviluppa la tecnologia. Ora, la tecnologia è un tratto umano, ben noto, che ci contraddistingue, però ci sono società in cui la tecnica occupa un punto centrale e altre in cui la tecnica, tutto sommato, non è centrale. Albene, nelle società dell'efficienza, in cui noi ci percepiamo separati, come oggetti separati, e in cui le relazioni hanno meno importanza del raggiungimento degli obiettivi, ecco che compare una figura, questa, che indica appunto la struttura di potere. La struttura di potere significa che proprio perché mi percepisco come oggetto separato, io sono a rischio. Sono a rischio nel senso di essere aggredito, di perdere i privilegi, di perdere ciò che ho, e quindi, siccome sono a rischio, ho paura. La paura mi porta a cercare il controllo. E il controllo mi porta a cercare il potere. Il potere si raffina nelle società umane perché viene esercitato non più con la forza, come avviene anche nei branchi di animali, insomma, ma attraverso il linguaggio. E quindi attraverso un modo di parlare e usare le parole che è confusivo. È questo modo che milioni di soldati sono stati mandati in guerra, sono stati ammazzati, perché sono stati convinti. Non era solo la forza, c'era l'ideologia che consentiva a dei giovani, al pieno della loro vitalità, di andare a buttare la loro vita nelle trincee. Quindi il potere si avvale sempre della propaganda. La propaganda si avvale di un linguaggio corrotto, in cui la parola non significa quello che dice. Okay? Peacekeeping significa spedizione con le armi. Democrazia significa oligarchia legittimata dalle votazioni. Bene, nelle società dove prevale, dove si dà importanza all'armonia, il contatto tra le persone, le relazioni, è il punto centrale. E i leader in queste società sono caratterizzati dalla saggezza, cioè tengono conto dell'ecologia dell'ambiente e tengono conto dell'ecologia delle persone. Nelle società dell'efficienza e della tecnica, la caratteristica non è il contatto, ma la separazione e la distanza. I leader, gran parte dei leader, sono caratterizzati da psicopatia, cioè apatia della psiche, che vuol dire una psiche indebolita e quindi poco capace di provare sentimenti. Lo psicopatico può fare certe cose perché non prova sentimenti. Può licenziare 50.000 persone, mettere a lastrico tutte queste famiglie perché non prova nulla. Ecco. Ok. Allora, nelle società dell'efficienza il bisogno di contatto è regolarmente frustrato. Il bisogno di contatto, che parte dalla nostra natura, è regolarmente frustrato dall'altra istanza, che è quella dall'altra forza, che è la tenersi a distanza e tenersi separati. Ma il bisogno di contatto è un bisogno fondamentale, non può sparire. Che cosa accade? Che questo bisogno di contatto si perverte e cerca compensazione. Ecco che cerca compensazione nel sesso, nel cibo, nelle droghe, nel consumismo. Chiaro che sesso e cibo non sono di per sé una perversione, ma lo diventano. Nel momento in cui mangio 4 volte quello che è necessario e pratico la sessualità non in modo sano, ma piena di fantasie, di pornografia e così via. La compensazione più comune è il consumismo, cioè siccome non ho contatto, siccome mi sento vuoto, siccome sono insoddisfatto, riempio questo vuoto comprando degli oggetti. Allora, quando il bisogno di contatto è frustrato, è ovvio che compaiono malattie dell'anima e del corpo. Quindi ogni volta che c'è una malattia dell'anima e del corpo, almeno in una società come la nostra, ci dobbiamo sempre chiedere, forse questa persona soffre di mancanza di contatto. Malattia, disease, disagio, illness, cosa comporta? La malattia è sempre... prevede sempre una scissione, una frammentazione, c'è sempre un disturbo nella comunicazione, che può essere un disturbo nella comunicazione interna, mente-corpo, un distretto del corpo con un altro, un sistema del corpo con l'altro, o tra persone. Quindi disagio, malattia fisica o psichica hanno sempre a che fare con disturbi nella comunicazione, con dei blocchi nella comunicazione, con delle barriere nella comunicazione. Gli orientali hanno capito benissimo quando trattano i blocchi energetici del nostro corpo. Allora, qual è la prima cura per una malattia? Qual è? La prima cura è il ripristino del contatto, del bisogno di contatto. E questo in PNL lo chiamiamo rapporto. E qui spenderò 2 parole, cosa vuol dire rapport? Rapport è la relazione di fiducia che si instaura tra un terapeuta, tra un counselor, tra un operatore della salute con il cliente, perché è in grado di sviluppare nell'altro il totale affidamento, l'affidamento a sé. Vedremo che il rapport è facilitato da alcuni elementi, per esempio dal respirare insieme, dalla postura, da muoversi nello stesso modo, da mantenere lo stesso tempo e ritmo, cioè nell'entrare nel mondo dell'altro, nel praticare quella che potremmo dire l'empatia corporea. Che cos'è quindi la cura? La cura è ristabilire il contatto, la comunicazione interrotta o disturbata. E questo vale sia per gli altri e vale per sé. Questa è l'altra diapositiva, contatto sia psicologico sia fisico, per altri sì. E qui cominciamo a entrare, stiamo preparando quelli che saranno i lavori del pomeriggio. Nel pomeriggio, anche appena faremo qualche esempio questa mattina, lavoreremo cosa vuol dire entrare in contatto con sé, entrare in contatto col proprio respiro, col proprio corpo, con le proprie emozioni, con le proprie sensazioni. Perché è questo? Perché se noi siamo frammentati, la qualità dell'energia è una qualità di energia frammentata. e questa qualità non è idonea a creare quel tipo di rapporto che abbiamo detto, rapporto basato sulla fiducia. Ciò di cui abbiamo bisogno massimamente come operatore della salute è il più possibile essere integri, totali, presenti a noi stessi. Quindi faremo una serie di esercizi proprio su questo e poi vedremo come su questi esercizi si possono instaurare delle parole. Contatto. Contatto può essere fisico, ad esempio con l'abbraccio, il contatto fisico semplicemente mano con mano, il contatto oculare, ma anche il ridere insieme, quella è una forma di contatto tra i più importanti, il respirare insieme. Il contatto poi è facilitato, a livello psicologico è dato dai facilitatori della comunicazione, quindi l'ascolto, l'empatia, la stima incondizionata, la genuinità. Per esempio empatia, stima incondizionata e genuinità sono considerate le tre condizioni facilitanti da Carl Rogers, che è uno degli autori che più si è occupato di come instaurare le relazioni di aiuto. Va bene, qui ancora ripeto, la separatività porta scissione, debolezza e malattia con le emozioni distruttive, la paura è nel fondo, è il sottofondo. La paura porta al bisogno di controllo, ricerca del potere e le strutture difensive. Ma questo non solo nei manager o nei leader, anche nelle persone che si ammalano, hanno bisogno di controllare. E concludiamo, nella società dell'efficienza la tecnologia, che è parte della natura umana, sappiamo che l'uomo è tecnologico, si è pervertita. La tecnologia da strumento ausiliario al servizio della cura, dell'empatia e del contatto è diventata strumento di distanza, controllo, potere, cioè è diventato uno strumento di difesa. La cura oggi si è spersonalizzata. Quello di cui abbiamo maggiormente bisogno oggi a livello della cura è ritornare alla personalizzazione della cura. Oggi i medici hanno sempre meno tempo per visitare un paziente, pochi minuti. E so che i medici di base addirittura spesso non lo visitano neppure, lo sentono per telefono. Ecco. Ora Balint diceva che la prima medicina è il medico stesso.